Amore come amore, amore come dolore, ma ti chiedo fammi sentire il sapore di questa notte che piano piano sta passando, non dirmi domani che stai già andando via da me e da noi, da quello che oggi siamo, ti amo dalla prima volta, da quando ci conosciamo, perdonami se sono noioso e geloso di te, ma ti ricordi quando sei stata male e pianto per me? Farlo più, non piangere, non soffrire, e ti prego non bloccarmi quando sto per dire che ti amo con tutto me stesso e con tutto il mio cuore. Prendilo ormai è tuo e amo il tuo stupore in questo momento magico e ti sto baciando. Tutto il resto non esiste, sembra che sto sognando. Meraviglia divina, non mi stanco di te, del tuo sorriso che mi fa volare e arrivare in paradiso. Pensi di me e di questa storia, so solo che tu rimani una cosa sola, perché tu sei l'unica per cui vale la pena affrontare la giornata con aria serena. Sei motivo di felicità, motivo di ispirazione anche per queste parole di questa mia canzone. Quello che provo per te tanto è, già lo sai che ti amo e non mi fermo, non ti scorderò mai.